Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Il quadro si presenta in modo estremamente preoccupante. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da varie parti d'Italia di famiglie che sono state contattate dalle scuole e a loro è stato prospettato un orario ridotto piuttosto che uno slittamento della riapertura dell'attività didattica o la comunicazione dell'assenza degli insegnanti di sostegno, per cui il rischio delle cattedre vuote degli insegnanti di sostegno è un rischio altissimo che corrisponde chiaramente ad un criterio assolutamente inaccettabile, perché qua parliamo del diritto all'inclusione, del diritto all'istruzione. La storia descritta da Alessandro Chiarini del CONFAD, Coordinamento Famiglie con Disabilità, è amaramente la stessa in ogni provincia d'Italia. Il rischio è che agli studenti disabili non sia garantito il diritto all'istruzione, un colpo di coda di quanto accaduto durante il lockdown, una fase 1 che di fatto per centinaia di famiglie non è praticamente mai finita. Per capire cosa sta succedendo, incontro Teresa ed Elisabetta, due mamme di due ragazzi con disabilità. I loro figli vanno in un centro diurno gestito da una cooperativa milanese. Qui mi raccontano il servizio a singhiozzo, due giorni sì, tre no, qualche ora al giorno. Un quadro simile un po' in tutta Italia. Io sono Teresa Bellini, vivo a Milano, sono la referente regionale del CONFAD. Il CONFAD è il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, che esiste ormai da quasi 20 anni e che lotta per il riconoscimento dei diritti e per le tutele delle famiglie con disabilità. Teresa, tutta la fase, diciamo, del lockdown abbiamo provato a raccontarla anche noi di Diario di un Giorno a Radio 24, quindi una fase molto faticosa per voi, che proprio all'inizio siete stati completamente dimenticati e abbandonati. Adesso qual è la situazione? Ecco, questa domanda mi fa molto piacere perché mi permette di sottolineare come quello che si pensa sia successo in realtà non è successo. Cioè il divario che in realtà esiste tra quello che viene scritto, quello che viene detto, quello che viene disposto anche per legge attraverso delibere varie dei vari enti e la realtà invece effettiva sia delle persone con disabilità sia delle famiglie. Allora, la fase 1, come abbiamo già detto, è stato un periodo, come definirlo, devastante, anche se in qualche maniera noi eravamo già abituati, in quanto i familiari delle persone con disabilità, io dico di solito, sono agli arresti domiciliari da una vita, senza aver commesso nessun reato, in una situazione di fine pena mai. E quindi eravamo abituati all'isolamento, alla non inclusività, ad una serie di restrizioni, di limitazioni. E ovviamente è stato molto pesante affrontare questa situazione, anche perché ci siamo ritrovati completamente da soli. Non abbiamo ricevuto contatti per tutto il primo mese, né da parte dei centri diurni né da parte delle assistenti sociali. Dopo il primo mese si sono attivati nel contattarci, ci hanno proposto, ma questa è storia diciamo passata che abbiamo alle spalle, ci hanno proposto interventi prevalentemente da remoto. Ora, come abbiamo sempre detto, gli interventi da remoto non sono adeguati per tutta una serie di persone con disabilità. Nel mio caso, mio figlio, che ha una disabilità cognitiva abbastanza complessa, abbastanza grave, con l'intervento da remoto non riusciva assolutamente a interfacciarsi, né questo poteva essere un sollievo per i familiari, anzi a volte era un peso ulteriore da sopportare, perché dovevamo affiancare nostro figlio, dovevamo parlare per lui e dovevamo fare determinate cose. Quindi io mi sento di dire l'intervento da remoto bocciatura completa in moltissimi casi, poi è chiaro che ogni situazione è diversa. Dopodiché, insomma, ci è voluto un mese perché la regione deliberasse, un mese forse di più, poi un altro mese perché l'ATS deliberasse a sua volta, poi ancora forse un altro mese perché gli enti gestori si organizzassero, e insomma forse siamo arrivati metà maggio, primi di giugno, più o meno adesso, giorno più, giorno meno. E leggiamo che è iniziata la fase 2. Benissimo, la fase 2 per chi? Non certo per noi, perché per noi è stata una prosecuzione della fase 1. La questione ora è capire a che punto siamo. Elisabetta Zamboni è mamma di un ragazzo con sindrome di Down e anche vicepresidente del coordinamento centri diurni. La ripresa in realtà avrebbe dovuto cominciare a giugno. In realtà è stato perso un sacco di tempo di discussione tra comune e regione, e di conseguenza enti gestori. Gli enti gestori sono le nostre cooperative che ci danno il servizio, e finalmente a metà luglio la discussione ha portato che bisognava fare dei test sierologici a tutti prima di riprendere, però si doveva riprendere a piccolissime dosi, perlomeno all'interno dei centri diurni convenzionati, mentre i centri diurni comunali, e adesso spiego la differenza, hanno ricominciato ad essere aperti alla fine di luglio, però hanno ricominciato alla grande. Comunali vuol dire che gli educatori sono dipendenti comunali, mentre i nostri sono assunti dalle nostre cooperative. Comunque resta che nei comunali vanno tutto il giorno, tutti i giorni, e nei convenzionati no. E dal mio punto di vista è perché gli enti gestori, le cooperative diciamo private, non vogliono prendersi la responsabilità di dire apro a tutti e mi prendo la responsabilità nel caso in cui malauguratamente qualche utente venga contagiato, cosa che il comune fa. Certo, diciamo che il comune ha le spalle più larghe di essere difeso in tribunale e tutto il resto, le cooperative un po' meno, però io trovo che sia comunque scandaloso perché l'utente del CDD comunale va e gli altri no. Ma come si fa? Cioè chi è che entra nel CDD comunale e chi invece in quello convenzionato? Come funziona? Ci sono delle liste, oramai ci sono delle liste d'attesa. Quando una famiglia ha un figlio da mandare al centro diurno, si iscrive a queste liste di attesa che non, in questo momento non saprei dire quanto sono lunghe, perché poi col lockdown comunque di solito non sono mai meno di 30, 40, 50 persone che aspettano di entrare in un centro diurno. Quando si libera un posto in uno dei 40 centri diurni, indipendentemente dal fatto che sia comunale o convenzionato, alla famiglia viene fatta la proposta e uno dice sì, mi va bene, no, non mi va bene, quindi ritorna in fondo alla graduatoria. E quindi è un terno all'otto, cioè non è che uno possa scegliere di andare nel comunale o nel convenzionato, c'è un'unica lista d'attesa e non si può fare niente. Che cosa chiedete adesso in questa fantomatica ripresa? Cioè, si parla di un autunno in cui ci saranno sicuramente delle grosse criticità, ma tutti escludono i nuovi lockdown, quindi si dovrà stare in questa situazione e imparare a convivere in qualche modo con questo virus. Credo che per voi sia molto più difficile fare un discorso del genere. Ecco, voi cosa chiedete proprio alle strutture che accolgono i vostri figli? Beh, noi innanzitutto chiederemmo la sicurezza per i nostri figli, che però so essere una cosa difficile per tutti, ma soprattutto chiederemmo che tenessero i nostri figli e ci aiutassero a gestire la loro giornata, perché oltre che un problema nostro, come diceva anche prima Teresa, è un problema soprattutto dei nostri figli, perché i nostri figli sono abituati a uscire di casa tutti i giorni dalle 9 alle 16 a fare attività fisica, a fare laboratori culturali, artistici e tutto il resto, e da febbraio a questa parte sono in casa con noi, dove ovviamente non possono fare sport, non possono fare cose strane. Quindi i nostri figli hanno dei grossi problemi adesso a rientrare nei centri diurni. perché c'è chi non ci vuole più tornare, c'è chi invece, andando un giorno sì e un giorno no, nel giorno no si mette davanti alla porta di casa e non si muove di lì perché vuole uscire, vuole andare al centro, perché a loro piace, è un posto dove stanno insieme, in comunità, con gli educatori che li intrattengono, cioè voglio dire, è un posto così. Nella seconda parte siamo andati in un centro diurno convenzionato per capire come si lavora. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, vedete Di Grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Ulrich recupera, Pantani sui pedali. Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dei dello sport. Naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Ben ritrovati, puntata dedicata alla riapertura dei centri diurni, una riapertura che di fatto è avvenuta già a luglio ma che è riuscita a garantire solo un servizio parziale. Io sono Monica Bandera, sono la responsabile dei centri diurni per la cooperativa Progetto Persona. Accogliamo circa 200 persone al giorno con questi servizi. Quindi abbiamo riaperto con un distanziamento sociale di 2 metri, con tutta una serie di norme che riguardano, non so, la mensa, i trasporti, tutto quello che faceva parte della nostra quotidianità. Abbiamo riaperto a luglio con una presa in carico in cui, dovendo rispettare i 2 metri di distanziamento sociale, ha implicato delle prese in carico più limitate nel tempo. Perché? Perché questo consentiva di poter accogliere più ospiti nell'arco della giornata e sicuramente della settimana, che ha implicato per noi un grosso sforzo organizzativo, ma sicuramente una grossa difficoltà da parte delle famiglie, dove prima avevano comunque un supporto per 5 giorni alla settimana su tutto l'orario diurno e si sono invece ritrovate una presa in carico sicuramente meno significativa. Quando offri un servizio così a singhiozzo, la difficoltà non è anche per la persona che viene nel centro, cioè riuscire già a capire tutte le regole? Guarda, assolutamente. Noi abbiamo centri diversi, abbiamo un centro che è specifico su persone con autismo, dove la routine è fondamentale per loro, e sicuramente questo è uno dei grossi problemi. È uno dei grossi problemi dove noi, con delle tecniche educative, cerchiamo di andare ad affrontare, a supportare. È chiaro che non è così facile, però dall'altra parte è anche vero che noi abbiamo il vincolo della tutela della salute, per cui non possiamo comunque derogare a quello che ci viene chiesto da Regione Lombardia. Le famiglie che ho sentito sono sfinite, anche perché vengono da una fase 1 che non è finita mai praticamente. Insomma, quali sono le prospettive che si possono dare a queste persone, a queste famiglie? Guarda, in questo momento noi quello che stiamo cercando di fare è di trovare degli spazi aggiuntivi sul territorio. È chiaro che le famiglie sono veramente, alcune sono veramente molto in difficoltà, perché il lockdown, il fatto di averli comunque tenuti a casa per così tanto tempo, li ha comunque affaticati parecchio. Dunque, nei centri diurni sono tornate le persone con disabilità, ma tra regole collegate all'abbattimento del contagio e spazi che mancano, si fa quel che si può, un mantra parecchio antipatico sia per i disabili che per le loro famiglie, che dal lockdown ad oggi non hanno avuto l'attenzione che meritano. Sono Comi Camilla, coordinatrice di 2 centri diurni disabili della cooperativa Progetto Persona. Sono 2 centri diurni che con un funzionamento molto simile, ma che si differenziano per dimensione e tipologia di utenza. Quindi un centro diurno è specializzato per persone con una diagnosi di autismo o di disturbo dello spettro autistico o comunque patologie assimilabili, e accoglie fino a 16 utenti, l'altra realtà invece è un centro diurno per persone con disabilità, per la maggior parte congenita, di tipo grave e medio grave, e accoglie fino a 30 persone. Come state lavorando adesso alla ripresa? Allora, la ripresa la definirei da luglio ad ora, quindi il lavoro è estremamente strutturato, nel senso che iniziamo a definire il lavoro già nel momento di arrivo dei ragazzi al centro, quindi ci sono dei percorsi prestabiliti, quindi i ragazzi arrivano al centro, viene misurata loro la temperatura, possono accedere da un ascensore specifico o una rampa di scale specifica. All'interno del centro c'è un momento iniziale di disinfezione delle mani e di pulizia delle calzature. Dopodiché ogni utente ha assegnata una postazione ben definita, quindi noi abbiamo delle stanze all'interno delle quali ci sono degli operatori di riferimento e delle postazioni appunto definite, questo per cercare di mantenere il distanziamento sociale di cui dobbiamo tener conto e per facilitare anche gli utenti in maniera diciamo visiva nel comprendere qual è la zona che possono occupare senza andare a invadere ovviamente gli spazi altrui. È molto difficile la gestione di questa situazione. Allora, il primo momento sicuramente sì, difficile per l'equipe operativa, difficile per gli utenti soprattutto. In un momento iniziale noi abbiamo lavorato il rapporto 1-1, questo per come dire, data la fragilità della nostra utenza, per cercare di garantire il più alto grado di sicurezza possibile. Quindi abbiamo iniziato in maniera abbastanza dedicata, avendo preso poi confidenza sia l'equipe operativa sia gli utenti di questa nuova modalità di lavoro, ci siamo spinti ovviamente all'interno delle regole nel poter lavorare il rapporto 1-2, in alcuni casi il rapporto 1-3. Quindi c'è sicuramente la possibilità di garantire dei momenti anche un pochino più stimolanti, garantendo anche tutto un livello di come dire, socializzazione, interazione, che è fondamentale per la nostra utenza. Se doveste chiedere qualcosa, cosa chiedereste più personale in questo momento per essere diciamo più efficienti? Più spazi. La questione principale in questo momento per entrambi i nostri CDD è la questione degli spazi, nel senso che le risorse ci sono e proprio in base appunto alle limitazioni che abbiamo non possiamo accogliere più di un numero di persone, quindi noi parliamo di un centro diurno di 30 utenti e in questo momento riusciamo a accoglierne dai 16 ai 18, stessa cosa per l'altro centro diurno, è un centro che accoglie 16 utenti, riusciamo sfruttando al massimo tutti gli spazi ad accoglierne una decina. Quindi proprio la questione che in questo momento ci sta mettendo in difficoltà è la questione degli spazi. Spazio per poter accogliere tutti e dare sollievo alle famiglie, ormai sfinite, che come mi spiega Teresa Bellini pagano un prezzo altissimo su tanti fronti, anche quello economico. Se il servizio è a singhiozzo, infatti, qualcuno in famiglia dovrà lavorare meno e di solito sono le donne, sulle cui spalle cade il peso di tante, troppe cose. Gli spazi richiesti dovrebbero essere la priorità, avrebbero dovuto già esserci, si doveva partire con le cose sistemate perché in ballo c'è la dignità di migliaia di famiglie, perché non si arrivi a cogliere solo lo sconforto di donne come Teresa Bellini, mamma di un ragazzo con grave disabilità. Sono sempre più passi avanti, più sulla carta che nella realtà effettiva e concreta della vita di tutti i giorni, e invece bisogna eliminare questo gap e fare questo passaggio ulteriore e invece immedesimarsi nella situazione di vita. Quindi anche il ragazzino che va a scuola, il ragazzino con disabilità che va a scuola, quale sarà il suo scenario all'interno della scuola? Sappiamo degli altri, ma di lui cosa sappiamo? Che verrà messo fuori dalla classe? Che tipo di percorso potrà fare? Non lo sappiamo. tanto più non viene messa l'attenzione, ripetiamo ancora, sui CDD, su tutti gli altri centri che si occupano delle persone con disabilità. Sulla carta c'è insomma tutto, ma nelle classi mancano gli insegnanti di sostegno e nei centri diurni mancano gli spazi. Le famiglie sono allo stremo e a pesare non poco sulla bilancia sono anche i conti che non tornano, come spiega Elisabetta Zamboni, vicepresidente del coordinamento cittadino centri diurni. Comune, prima del lockdown, dava agli enti convenzionati, dei centri diurni convenzionati, dava 43 euro al giorno per ogni ragazzo affinché andasse 5 giorni alla settimana dalle 9 alle 16. Poi durante il lockdown ha in qualche modo pagato lo stesso gli enti gestori anche per gli interventi da remoto, poco ma li ha pagati, e adesso nel mese di agosto si sono accordati enti gestori e comuni su delle tabelle che prevedono che entro la fine di ottobre, se i ragazzi vanno 3 giorni alla settimana tutto il giorno, l'ente gestore riceverà lo stesso contributo come se i ragazzi andassero tutto il giorno, tutta la settimana. Quindi il comune aveva già messo a bilancio questi soldi, gli enti gestori continuano a prendere gli stessi soldi che prendevano prima, anche tenendo meno i nostri ragazzi, quindi alla fine pagano i ragazzi che vanno solo 3 giorni e le famiglie che negli altri 2 giorni non sanno come fare, specie se i genitori lavorano. Ci fermiamo qui. Se volete potete scrivermi a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.